Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. tutti per essere qui. Per me è un'enorme gioia suonare in questo magnifico posto insieme a questa orchestra fantastica diretta dal nostro maestro Piero Gallo, e quindi sono veramente, veramente molto felice di essere stato qui oggi. Per ringraziarvi voglio eseguire per voi, credo per la prima volta in Italia, un brano scritto nell'Ottocento dedicato a un compositore italiano ma mai eseguito in Italia, che è una fantasia sull'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie al suggerimento di Antonella, Antonella e Enzo, che ringrazio perché mi hanno soprattutto mi hanno incuriosito. Sono rimasti entusiasti di aver visto la sua band, la sua orchestra a Roma, e dal qualche video che ho visto ho apprezzato subito, ma vedervi dal vivo e ascoltarvi dal vivo è qualcosa di eccezionale, quindi vi ringrazio, avete reso questa, faccio i complimenti a tutta l'orchestra, è un bel momento per dare veramente l'inizio e dire buon Natale. Quindi questo concerto possiamo definirlo di Natale, è stato veramente un momento bellissimo e la ringrazio. Grazie. Della sua grazie. Grazie. mano sola. Forza. L'anima del bolero mai fuggito qua.